polverina, coraggio, colombina, devi anche giunta l'ora della provvidenziale confusione. Graziano, Balanzone, Prudenzio, Pancrazio, Rovina di Pocrasso, sono comparsi. Vediamo se sto in piedi, sì o no. Ma brucio tutto e amor non è. Mi sento qualche cosa. Dove? Dove? Non so. La lingua intacca e non ne so il perché. Sento nel mondo e quando è i riveriti loro nomi, e